indietro nel tempo. Lo sguardo fisso, tanto sai, non ci va mai a letto la notte, stanotte. Non lo sai, non lo sai, di cosa sono fatto io dopo un altro addio. Credere ancora a te, sai che non mi conviene mica. Piano, piano.